Abbiamo amore il cane. Secondo ritorno che sei al mare, ti posso raggiungere? Ci bocce. Thank you. Però là si mette bella la guarda ma vuoi la guarda la macchia sì Marco tutte tranne che il 38 37 e 39 Questo costa bajísima. Ah. Se me quiere poner aquí para ir a la charla.